orribile lo scempio, orribile lo scempio del sangue, del sangue si vedrà. Orribile lo scempio, orribile lo scempio del sangue. Orribile, orribile lo scempio del sangue, nel sangue si vedrà. All'alto in cor d'esempio la strage servirà. E all'alto in cor d'esempio la strage, la strage servirà. Orribile lo scempio, orribile lo scempio del sangue, nel sangue si vedrà. Orribile lo scempio, orribile lo scempio del sangue.